Ma questo è, ma attenzione, è dall'87 che c'è Santoro e fa sempre ascolti, perché occorre sempre così creare. Senta, ma con Falonieri avrebbe preso un provvedimento del genere, secondo lei? No, ma infatti l'unico direttore generale che ci vorrebbe è con Falonieri. Ah no, cioè, questa cosa è interessante. Secondo lei l'unico direttore generale che ci vorrebbe è con Falonieri? In che senso, Freccero? Ma è molto, perché è molto più equilibrato, perché poi le cose le sa fare diversamente, perché conosce. Cioè, una, lei si auspica una RAI guidata da Confalonieri? Sarebbe molto meglio. Allora, in questo, diciamo che in questo macroscopico confuso interesse, Andrea, cioè, Confalonieri sarebbe molto più abile a in qualche modo a gestire, a conoscere delle tecnicalità, cioè conosce delle tecniche, conosce in qualche modo la forma, cioè sarebbe molto più importante. Io credo che molte volte il direttore generale si proceda così per impulsi, secondo non una visione, cioè non riesce mai a impostare un... Ma sa di televisione, si intende in qualche modo, ha imparato negli ultimi, secondo lei, Masi ha imparato o no? Non l'ho mai conosciuto, non l'ho mai visto, non ho mai parlato. Però, mi sembra, da quello che avviene, che non vi sia, insomma, un grande esperto di TV. Quello all'inizio non lo era, ma ha imparato in questo periodo oppure no, secondo lei? Non gliene frega niente? Ma bisogna fare delle domande, a fare un questionario, ad esempio, su quello che va in onda. Bisogna fare, lei che è così bravo a ottenere chiunque intervista, lei fa 5 domande. Magari domande. Con Masi, ma sa, insomma, Masi solo da Vespa va. Lo so, ma lei potrebbe benissimo provare. Tutto si può provare, tutto. Però, Parenzo, questa cosa non è male. Freccero, che insomma, certo non è berlusconiano, dice, però riconosce in Confalonieri un grande manager, uno che di televisione si intende, comunque una persona, diciamo, lungimirante da un certo punto di vista, e dice, beh, insomma, magari ci fosse Confalonieri al posto. Ma pare che Confalonieri, anche in basato la, Confalonieri detto, più volte ha detto più volte subito Santoro, è un uomo che bada agli interessi dell'azienda che guida, sa che Santoro è un uomo che fa ascolti e siccome è un bravo capo azienda, questo bada. I dirigenti della RAI attuali badano più ad altro che non al profitto. Sì, la questione è l'ossessione, la questione è l'ossessione. Secondo me, però... L'ultima cosa, nel 96 Confalonieri ha firmato un contratto a Santoro. Sì. 96. Vabbè, per volontà anche di Berlusconi, immagino, perché non è che, per volontà anche di Berlusconi, insomma. Vede quanto sia abile, insomma. Ah no, certo.